Quinta traccia. Ma ho paura, Mr. Elton, che a Harriet non piacerà di posare. Fa così poco conto della sua bellezza. Non avete osservato in che modo mi ha risposto? Come voleva dir chiaro e tondo, perché mai dovrebbe venir disegnata la mia immagine? Oh sì, me ne sono accorto, va sicuro, non mi è sfuggito, ma pure non so immaginarmi come essa non si lasci convincere. Harriet fu presto di ritorno e la proposta venne fatta quasi immediatamente, ed essa non aveva scrupoli che potessero resistere per molto i minuti contro le calorose insistenze degli altri due. Emma desiderava di mettersi subito all'opera e perciò tirò fuori la cartella che conteneva i suoi vari tentativi di ritratti, che nessuno di essi era stato mai finito, per decidere sul formato migliore per Harriet. Furono mostrati i suoi molti esordi: miniature, busti, ritratti in piedi, disegni a matita, pastelli, acquerelli, erano stati tentati volta a volta. Aveva sempre voluto far tutto e aveva fatto più progressi nel disegno e nella musica di quanti ne avrebbero potuti fare molte con la scarsa fatica a cui era disposta ad assoggettarsi. Suonava e cantava e disegnava quasi in ogni stile, ma le era sempre mancata la costanza e in nulla si era accostata al grado di eccellenza che sarebbe stata lieta di possedere e a cui non sarebbe venuta meno. Non si ingannava molto circa la sua abilità di artista o di musicista, ma non era aliena a che gli altri si ingannassero, o dispiacente di sapere che la sua reputazione di maestria era spesso più alta di quanto non meritasse. Di merito ce n'era in ciascun disegno, specialmente nei meno finiti. Il suo stile era vivace, ma ce ne fosse stato molto meno, o ce ne fossero state 10 volte tanto, il piacere e l'ammirazione dei suoi due compagni sarebbero stati identici. Entrambi andavano in estasi. Una rassomiglianza piace a tutti, e i lavori di Miss Woodhouse dovevano essere di prim'ordine. «Non trovate qui molta varietà di facce», diceva Emma. «Non avevo che la mia propria famiglia su cui fare gli studi. Ecco qui mio padre e un altro di mio padre, ma l'idea di posare per il mio ritratto lo rese così nervoso che potei coglierne i lineamenti solo di soppiatto, perciò né l'uno né l'altro ritratto gli somiglia molto. Mrs. Weston ancora, e ancora, e di nuovo, vedete. Cara Mrs. Weston, sempre la mia più buona amica in ogni occasione. Posava ogni volta che glielo chiedevo. Ecco qui mia sorella, è proprio la sua elegante figurina. E la faccia non è troppo diversa. L'avrei fatta molto somigliante se avesse posato di più, ma lei aveva tanta fretta che io facessi il ritratto ai suoi 4 bambini che non stava tranquilla. Ed ecco che vengono tutti i miei tentativi di rendere 3 di quei 4 bambini. Eccoli qui, Henry e John e Bella, da un capo all'altro del foglio, e ognuno di loro potrebbe raffigurare ognuno degli altri. Lei ci teneva tanto che io facessi loro il ritratto che non potei rifiutare. Ma non è possibile fare star fermi dei bimbi di 3 o 4 anni, sapete, e non può essere molto facile riprodurre le loro fattezze, al di là dell'aspetto e del colorito, a meno che non abbiano fattezze più grossolane di quelle che non abbiano mai avuto dei figli di mamma. Questo è il mio schizzo del quarto, che era un lattante. Lo ritrassi mentre dormiva sul sofà e la cuffia non potrebbe essere più somigliante. La testa l'aveva adagiata nel modo più comodo. È somigliantissimo. Vado piuttosto orgogliosa del piccolo George. L'angolo del sofà è eccellente. Ed ecco qui il mio ultimo, mostrando un grazioso bozzetto di piccolo formato d'un signore in piedi. Il mio ultimo e migliore, mio cognato, Mr. John Knightley. Non ci sarebbe voluto molto per finirlo quando lo misi da parte in uno scatto di malumore e feci voto di non far più ritratti. Non potei fare a meno di irritarmi, perché dopo tutte le mie fatiche e quando ero proprio riuscita a cogliere la somiglianza, Mrs. Weston ed io eravamo d'accordo nel ritenerlo somigliantissimo, soltanto troppo bello, troppo adulatorio, ma codesto era un peccar d'eccesso, non di difetto. Dopo tutto ciò venne la fredda approvazione della povera casa Isabella, che, sì, gli somigliava un poco, ma sicuramente non gli rendeva giustizia. Ci costò una gran fatica persuaderlo almeno a posare. La cosa fu fatta cadere dall'alto, e insomma fu oltrepassato il limite della mia sopportazione, sicché io non volli mai finirlo, per dover poi sentirne far le scuse per la sua insoddisfacente somiglianza a ogni visitatore mattutino in Brunswick Square. E come ho detto, rinunziai allora a far di nuovo il ritratto d'alcuno. Ma per amore di Eric, o piuttosto per mio, siccome in questo caso per adesso non ci sono né mariti né mogli di mezzo, verrò meno ora alla mia risoluzione. Mr. Elton parve adeguatamente colpito e allietato dall'idea e ripeteva: né mariti né mogli, in questo caso per adesso, proprio così come notate, precisamente, né mariti né mogli, con sicuriosa consapevolezza che Emma cominciò a chiedersi se non avrebbe fatto meglio a lasciar subito quei due insieme. Ma siccome voleva disegnare, la dichiarazione doveva aspettare un altro po'. Ben presto ebbe fissato il formato e il tipo del ritratto. Doveva essere un ritratto in piedi ad acquerello, come quello di Mr. John Knightley, ed era destinato, se fosse di peso da lei, a tenere un posto molto onorevole sul marmo del caminetto. Cominciò la posa. E Harriet, sorridendo e arrossendo, e timorosa di non conservare il suo atteggiamento e il suo aspetto, presentava una soave mescolanza di espressioni giovanili agli occhi intenti dell'artista. Ma non si poteva far nulla con Mr. Elton, che si agitava dietro di lei e osservava ogni tratto. Emma gli dava credito d'essersi collocato in un punto dove poteva guardare e riguardare senza dar noia, ma si sentì proprio obbligata a metterci fine e a chiedergli di collocarsi altrove. Ed ecco che le venne in mente di impiegarlo a leggere. Se avesse fatto il favore di leggere ad esse, sarebbe stata davvero una cortesia. Avrebbe distratto lei dalle difficoltà della sua parte e diminuito il tedio di Miss Smith. Mr. Elton non chiedeva di meglio. Harriet ascoltava ed Emma disegnava in pace. Doveva permettergli di venire ogni tanto a dare un'occhiata. Meno di così sarebbe stato troppo poco per un innamorato. Ed egli era pronto alla più piccola pausa della matita a saltar su e a osservare come progrediva il ritratto e ad esserne incantato. Non c'era da rimaner male con un incoraggiatore così, perché la sua ammirazione gli faceva discernere una somiglianza quasi prima che fosse possibile. Essa non poteva stimare il suo occhio, ma il suo amore e il suo desiderio di far cosa grata erano irreprensibili. La posa fu completamente soddisfacente. Emma rimase proprio assai contenta dell'abbozzo del primo giorno per desiderare di continuare. Non mancava la somiglianza, l'atteggiamento era ben scelto, E siccome intendeva di introdurre un leggero miglioramento nel personale, per dare un po' più di statura e assai più eleganza, confidava che alla fine sarebbe riuscito un grazioso disegno e che sarebbe andato a occupare il posto a cui era destinato con onore per ambedue. Un permanente ricordo della beltà dell'una, dell'abilità dell'altra e dell'amicizia d'entrambe. Con quante altre piacevoli associazioni avrebbe probabilmente aggiunto il molto promettente attaccamento di Mr. Elton. Harriet doveva posare il giorno dopo e Mr. Elton, proprio come avrebbe dovuto, pregò che gli venisse permesso di assistere e di leggere loro di nuovo. Ma sicuro, saremo lietissime di considerarvi della brigata. Le stesse gentilezze e cortesie, il medesimo successo, la medesima soddisfazione si ripeterono il giorno appresso e accompagnarono i progressi del ritratto, che furono rapidi e felici. Ognuno di quanti lo videro rimase contento, ma Mr. Elton poi non la finiva più d'andare in estasi e lo difendeva contro ogni critica. Miss Woodhouse ha dato alla sua amica la sola bellezza che le mancava, osservava Mrs. Weston a lui, senza sospettare minimamente di rivolgersi a un innamorato. L'espressione dell'occhio è proprio quella, ma Miss Smith non ha quelle ciglia e quelle sopracciglia, e il non averle è il difetto del suo volto. Credete, rispose lui. Non posso andare d'accordo con voi. A me sembra una rassomiglianza perfetta in ogni tratto. Non ho mai visto in vita mia una somiglianza tale. Bisogna tener conto dell'effetto dell'ombra, sapete. L'hai fatta troppo alta, Emma, disse Mrs. Knightley. Emma lo sapeva, ma non voleva ammetterlo. E Mr. Elton aggiunse con calore. Oh no, di certo non troppo alta, neanche per sogno. Considerate, sta seduta e questo presenta naturalmente un diverso. Questo insomma dà esattamente l'idea e le proporzioni devono venire osservate, sapete. Proporzioni, prospettiva. Oh no, dà esattamente l'idea di una statura come quella di Miss Smith. Esattamente così, proprio. È molto grazioso, disse Mr. Woodhouse, eseguito con tanta grazia, proprio come sono sempre i tuoi disegni, mia cara. Non conosco nessuno che disegni bene come te. La sola cosa che non mi persuade è che essa pare seduta all'aperto, con nient'altro che uno scialletto sulle spalle, e vien fatto di pensare che debba prendere un'infreddatura. Ma, caro babbo, si suppone che sia estate, una calda giornata estiva. Guarda l'albero. Ma non è mai prudente sedersi all'aperto, mia cara. Voi, signore, potete dir quel che volete, esclamò Mr. Elton, ma io confesso che mi pare un pensiero felicissimo quello di collocare Miss Smith all'aperto. E l'albero è schizzato con un brio inimitabile. Ogni altro sfondo sarebbe stato molto meno in carattere. L'ingenuità dei modi di Miss Smith è, insomma, oh, è ammirevole. Non riesco a staccare gli occhi. Non ho visto mai una somiglianza come questa. Rimaneva da mettere in cornice il ritratto, e qui sorsero delle difficoltà. Doveva esser fatto subito, doveva esser fatto a Londra, l'ordinazione doveva essere trasmessa per mezzo di una persona intelligente sul cui gusto si potesse contare e non ci si doveva rivolgere a Isabella, che di solito si incaricava di tutte le commissioni, perché era dicembre e Mr. Woodhouse non poteva tollerare l'idea che Isabella uscisse di casa con il nebbione di dicembre. ma appena l'imbarazzo venne a conoscenza di Mr. Elton, fu trovata la soluzione. La sua galanteria stava sempre allerta. Se si fossero fidati di dar la commissione a lui, che piacere immenso avrebbe provato a eseguirla. Poteva andare a cavallo a Londra quando volessero. Era impossibile dire quanto sarebbe stato lieto di venire impiegato in simile incombenza. Egli era troppo buono, lei non poteva sopportare l'idea. Per nulla al mondo avrebbe voluto dargli una tal seccatura. Tutte queste proteste produssero l'attesa ripetizione di preghiere ed assicurazioni, e in pochi minuti fu affare concluso. Mr. Elton avrebbe portato il disegno a Londra, avrebbe scelto la cornice e dato le istruzioni. Ed Emma pensò di impacchettarlo in modo da assicurarne la protezione senza incomodar lui molto, mentre egli sembrava soprattutto temere di non essere incomodato abbastanza. «Che prezioso deposito!» disse egli con un tenero sospiro nell'atto di riceverlo. «Costui è quasi troppo galante per essere innamorato», pensò Emma. «Così direi se non supponessi che possono esistere 100 modi diversi d'essere innamorati. È un giovanotto eccellente e farà proprio il caso di Harriet. Sarà un... precisamente così, come dice lui, ma sospira e langue e studia complimenti più di quanto non potrei tollerare se fossi io l'oggetto principale delle sue attenzioni. Ma anche nella mia parte accessoria me ne tocco una bella porzione, ma è la sua gratitudine per via di Harriet». Il giorno stesso dell'andata di Mr. Elton a Londra fornì a Emma una nuova occasione per rendere servizio all'amica. Harriet, secondo il suo solito, si era recata a Harfield subito dopo la prima colazione e dopo un po' era andata a casa per ritornare per pranzo. Essa tornò e prima di quanto non fosse attesa, e con un'aria agitata, frettolosa, che annunciava che era accaduto qualcosa di straordinario che essa desiderava di raccontare. In mezzo minuto fu detto tutto. Essa aveva sentito, appena tornata da Mrs. Goddard, che Mr. Martin era stato lì un'ora prima, e trovando che lei non era in casa, né s'aveva ragione d'attenderla, aveva lasciato per lei un pacchetto da parte di una delle sue sorelle, e se n'era andato. E aperto il pacchetto, essa aveva trovato, oltre alle due canzoni che aveva mandato a copiare a Elizabeth, una lettera per lei. E questa lettera di lui, di Mr. Martin, e conteneva una esplicita proposta di matrimonio. Chi avrebbe potuto pensarlo? Essa era così sorpresa che non sapeva che fare. Già, proprio una proposta di matrimonio. E una bella lettera, o almeno tale pareva a lei. Ed egli scriveva proprio come se l'amasse moltissimo. Ma lei non sapeva. E così era venuta più presto che aveva potuto per chiedere a Miss Woodhouse che cosa doveva fare. Emma aveva quasi vergogna per la sua amica, che sembrava così lusingata e così esitante. «Parola d'onore!» esclamò. «Il giovanotto è risoluto a non perder nulla per aver omesso di chiedere. Vuol fare un buon matrimonio se gli riesce». «Volete leggere la lettera?» chiese Harriet. «Ve ne prego, vorrei che lo faceste». A Emma non dispiacque di venir sollecitata. Lesse e rimase sorpresa. Lo stile della lettera era molto al di sopra di quanto s'attendeva. Non solo non c'erano errori di grammatica, ma in quanto a composizione non avrebbe fatto far cattiva figura a un signore. Il linguaggio, sebbene semplice, era robusto e privo d'affettazione, e i sentimenti che comunicava facevano molto onore allo scrivente. Era breve, ma ispirava buon senso, caldo affetto, liberalità, proprietà e perfino delicatezza di sentire. Emma ci si indugiò sopra, mentre Harriet l'osservava, attendendo ansiosamente la sua opinione, con un «Ebbene, ebbene», e alla fine fu costretta ad aggiungere «È una buona lettera o è troppo breve?» «Sì, davvero una buona lettera», rispose Emma piuttosto lentamente. «Una lettera così buona, Harriet, che tutto considerato, penso che debba averlo aiutato una delle sue sorelle. Non riesco a capacitarmi come il giovanotto che ho visto parlare con voi l'altro giorno abbia potuto esprimersi così bene se non avesse avuto altre risorse che le proprie. Eppure questo non è stile di donna. No, certo, è troppo robusto e conciso. Non è abbastanza diffuso per essere di donna. Senza dubbio è un uomo giudizioso e suppongo che abbia un talento naturale per... Pensa vigorosamente e con chiarezza e quando prende la penna in mano i suoi pensieri trovano da sé le parole. Così accade in certi uomini. Sì, capisco il tipo di animo, vigoroso, deciso, con sentimenti fino a un certo punto non grossolani. Una lettera meglio scritta, Harriet, e così dicendo la restituiva, di quanto non mi sarei aspettata. Ebbene, chiese Harriet, che ancora attendeva, ebbene, e che devo fare? Che dovete fare? Ma in che senso? Volete dire relativamente a questa lettera? Già. Ma di che cosa dubitate? Naturalmente dovete rispondere, presto. Sì, ma che cosa devo dire? Cara Miss Woodhouse, consigliatemi. Oh, no, no, è meglio che la lettera sia tutta vostra. Vi esprimerete come si deve, ne sono certa. Non c'è pericolo che non riusciate intelligibile, e questa è la prima cosa. Il vostro senso non deve essere ambiguo, né dubbi né incertezze, ed espressione di gratitudine e di ansia per la pena che date, quale richiede la convenienza, si presenteranno da sé spontanee alla vostra mente, ne sono sicura. Non c'è bisogno che vi suggerisca di scrivere con un'aria di dispiacere per il suo disappunto. Allora, voi credete che io dovrei dirgli di no, disse Harriet con gli occhi bassi. Dovrei dirgli di no? Mia cara Harriet, che cosa volete dire? Avete dubbi su questo? Io credevo, ma vi chiedo scusa, forse mi sono sbagliata. Certo non vi ho compresa, se sentite dubbi circa il tenore della vostra risposta. Credevo che mi consultaste solo intorno al modo di formularla. Harriet taceva. Con fare un po' riservato, Emma continuò. Intendete dare una risposta favorevole, immagino. No, niente affatto, cioè non intendo. Che devo fare? Che mi consigliereste di fare? Vi prego, cara Miss Woodhouse, ditemi che cosa dovrei fare. Non vi darò nessun consiglio, Harriet, non voglio impicciarmene. Questo è un punto che dovete decidere col vostro sentimento. Non avevo idea di piacergli tanto, disse Harriet, contemplando la lettera. Per qualche istante Emma perseverò nel suo silenzio. Ma cominciando a temere che la vincente lusinga di quella lettera potesse essere troppo potente, pensò che fosse meglio parlare. Ritengo essere regola generale, Harriet, che se una donna dubita se accettare un uomo o no, certamente essa dovrebbe rifiutarlo. Se può esitare a rispondere sì, dovrebbe dire no immediatamente. Non è uno stato il matrimoniale da abbracciare impunemente con animo dubbioso, col cuore diviso. Ho creduto mio dovere d'amica e di persona più attempata di voi di dirvi tanto, ma non immaginate che io voglia influire su di voi. Oh no, son certa che siete troppo buona per... Ma se volete appena consigliarmi sul da fare... No, non intendo questo. Come dite, si dovrebbe essere risoluti. Non si dovrebbe esitare. È una cosa molto seria. Forse sarà più prudente dire di no. Credete che farei meglio a dire di no? Per nulla al mondo, disse Emma, sorridendo graziosamente, vi vorrei consigliare in un senso o nell'altro. Dovete essere il miglior giudice della vostra felicità. Se preferite Mr. Martin a ogni altra persona, se lo ritenete l'uomo più simpatico col quale siete stati in compagnia, perché dovreste esitare? Arrossite, Harriet. Vi accade di pensare in questo momento a qualchedun altro che risponda a quel requisito? Harriet, non ingannatevi. Non lasciatevi trasportare dalla gratitudine e dalla compassione. In questo momento, a chi pensate? I sintomi erano favorevoli. Invece di rispondere, Harriet volse confusa le spalle e si fermò pensosa dinanzi al fuoco. E sebbene la lettera fosse ancora tra le sue mani, ora la rigirava meccanicamente, senza riguardi. Emma attese il risultato con impazienza, ma non senza forti speranze. Alla fine, con qualche esitazione, Harriet disse: «Miss Woodhouse, dal momento che non mi volete dare il vostro parere, dovrò fare da me come meglio posso. E ora ho proprio deciso. E davvero mi sono quasi risolta a dire di no a Mr. Martin. Credete che io abbia ragione?» Perfettamente ragione, carissima Harriet. Fate proprio quel che dovreste fare. Mentre eravate ancora indecisa, io mi sono tenuta per me i miei sentimenti. Ma ora che siete così completamente risoluta, non ho esitazione alcuna ad approvare. Cara Harriet, ne sono molto lieta. Mi sarebbe dispiaciuto di perdere la vostra amicizia, che tale sarebbe stata la conseguenza del vostro sposarvi con Mr. Martin. Mentre eravate appena vacillante, io non ne ho fatto parola, perché non volevo influenzarvi. Ma per me sarebbe stata la perdita d'un'amica. Non avrei potuto far visita a Mrs. Robert Martin della fattoria del mulino dell'abbazia. Ora son sicura di voi per sempre. Harriet non aveva sospettato il suo pericolo, ma l'idea di esso la colpì fortemente. «Non avreste potuto farmi visita?» gridò con aria costernata. «No, certo, non potevate, ma non ci avevo pensato prima. Questo sarebbe stato terribile. L'ho scampata bella. Cara Miss Woodhouse, per nulla al mondo vorrei rinunziare al piacere e all'onore della vostra intimità». «Davvero, Harriet, sarebbe stata una gran pena perdervi, ma sarebbe stato inevitabile. Vi sareste esclusa da tutta la buona società. Avrei dovuto piantarvi. Dio mio, come avrei potuto sopportarlo? Non venire più a Hartfield m'avrebbe uccisa. Cara creatura affettuosa, bandita alla fattoria del mulino dell'abbazia, ridotta alla società degli incolti e dei volgari per tutta la vita. Mi domando come quel giovanotto abbia potuto aver l'ardire di chiederlo. Deve avere una gran bella opinione di se stesso. Ma non credo neppure che sia vanitoso in genere, disse Harriet, la cui coscienza si opponeva a quella critica. Almeno è d'indole eccellente e io gli sarò sempre molto obbligata e avrò molta considerazione per lui. Ma questa è una cosa ben diversa da...